E noi lasciamo la piazza in festa, era la piazza San Carlo di Torino il 31 maggio 2015 per il Festival Torino Jazz 2015, che dava una accoglienza come di dovere a Shibusa Shirasu, una formazione giapponese protagonista di questo scatenatissimo concerto. Ha detto il cantante, l'avete sentito anche con il fiatone, un cantante instancabile in questa formazione. A un certo punto noi non siamo non facciamo uno show, siamo un party, cioè siamo una festa. E in effetti questa festa l'abbiamo goduta tutta quanta qui a Radio 3 Suite. Il direttore Daisuke Fuva, con un collettivo davvero pieno di gente: sax tenore, sax contralto, sax baritono, trombone, tuba, violini, tastiere, due batterie, vibrafoni, due chitarre, basso, percussioni, quattro danzatori buto, un danzatore ochoshi, proiezioni video, pittori e performer, la voce di Yumi Tamai, che era appunto l'instancabile cantante che, come ci raccontava Pino Saulo, correva da una parte all'altra del palcoscenico animando tutti i musicisti, animando il pubblico. Bene, questi sono stati i protagonisti della serata del 31 maggio 2015 a Torino per il Festival Torino Jazz, e con Shibusa Shirasu abbiamo davvero passato quasi due ore di musica ad altissimo volume, ad altissima tensione e ad altissimo tasso di allegria.